all'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva di Carlo Alberto Carnevale Maffè e Oscar Giannino. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 18 luglio, sono le 10:08 primi 47 secondi, siamo in diretta agli studi di Radio 24 di Milano, l'intera compagnia qui di Conti della Belva che vi saluta, Oscar Giannino naturalmente, Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli, poi si aggiungerà più tardi per la consueta rubrica di fine trasmissione del Non si può fare. Allora, come sempre, riepilogo dei temi per consentirvi di decidere se telefonare all'800240024 e quali messaggi mandarci al 3492386666. Di che cosa parliamo? E quale tweet fare su Conti della Belva? Certamente. No, ma sai, credo che il giudice di Milano adesso dopo Uber le va anche adesso, di... prossimi, sì. È possibilissimo. Allora, noi oggi innanzitutto faremo la sintesi, come sempre, di come è andata la settimana, quindi parliamo della Grecia e non solo, e vi faremo un po' arrabbiare, almeno quanto, in parte solo, perché sennò poi vi viene un attacco di fegato. Ci siamo arrabbiati noi per alcune cosette della settimana, vedrete una cosa di cui parleremo, di questo scambio incredibilmente osceno che avviene nella nuova CDP del governo. Sapete che il governo ha cambiato i vertici della CDP e c'è una chicca su cosa avviene alla CDP, ne parliamo tra poco e vedremo cosa ne penserete. C'è una norma fiscale in arrivo per sanzionare fino al 50% i prelievi dei lavoratori autonomi, perché praticamente prendere dal conto corrente equivale a ricavi in nero secondo lo Stato. I giornali ne hanno parlato pochissimo, a noi sembra una cosa gravissima, ne parleremo e vedremo cosa ne pensate. Poi abbiamo due grandi blocchi, uno è quello dedicato alla povertà, perché l'Istat ha rivisto i numeri della povertà assoluta relativa e insomma... Per quanto possa sembrare discutibile, ce ne sono quasi 2 milioni in meno, rivedendo gli indicatori statistici. Tenteremo di spiegarci come e perché, ma soprattutto il punto è: il welfare italiano resta non a misura della povertà. Si pensa invece a prepensionare di nuovo, riaggravando il deficit previdenziale, ma per chi non ha o non ha abbastanza, il welfare non è disegnato per lui. E allora vedremo che cosa fare, sentiremo voi sulla domanda che cosa fare. Naturalmente noi tenteremo di dirvelo da un punto di vista liberale, non troppo statalistico e scassa conti, ma vedremo cosa ne pensate voi. E infine un blocco relativo alla conferma di un'altra stortura italiana, perché partiremo da un report che esamina la condizione per la quale le imprese italiane continuano a dire di avere migliaia di posti che non riescono a coprire, perché i giovani e comunque coloro che non hanno lavoro non hanno le professionalità che alle imprese servono, ed è incredibile per un paese con 3 milioni di disoccupati, però è così, è confermato che è così. La domanda che ci poniamo e vi poniamo è: ma avete l'impressione che con la riforma della scuola stiamo tentando di dare una risposta a questo problema? Noi pensiamo di no, perché in realtà non è stata fatta la scelta dell'istruzione duale professionale alla tedesca, abbiamo modificato quasi per nulla il curriculum, abbiamo parlato per un anno di quanti assumere di supplenti e del preside sceriffo, però in realtà il punto di fondo del gap che dal punto di vista formativo di istruzione pubblica dà ai giovani, che è questo in buona sostanza e che determina una partecipazione molto più bassa dei nostri giovani al mercato del lavoro rispetto ad altri paesi, non è affrontato. O almeno questa è la nostra impressione, magari se la vostra è diversa e siete dei fan assolutamente convinti della buona scuola, telefonateci e ditecelo. Naturalmente oggi ci sarà l'assemblea del PD all'Expo qua a Milano, sentiremo che cosa ci dice il Presidente del Consiglio delle cose delle ultime settimane, che ne so, il Consiglio regionale della Calabria tutto di indagati, in Sicilia Crocetta e non si riesce a capire se è la procura che ci dice il vero o il falso, oppure se, come ci dicono alcuni magistrati, può essere che ci siano dei carabinieri che tendono trappole ai giornalisti dicendo di telefonare telefonate che non sono negli atti o che forse sono in una parte degli atti che non è stata ancora vidimata, cioè una storia italiana. Vi ricordo anche che a Roma e a Milano nel frattempo si sono dimessi i vice sindaci, insomma c'è molto di cui parlare in questo paese. Ma allora, Mario, cominciamo da te. Questa settimana che cosa ci ha fatto molto arrabbiare? Ma poi parleremo del discorso, diciamo, che tu hai introdotto, che su Cassa Depositi e Prestiti, che quello è molto corposo. Io ho visto, allora, è tornata l'Unità, come saprete. Il giornale, sì, beh, l'Unità del paese non c'è mai stata, quindi... Figuriamoci quella della sinistra. Sì, no, esatto, la scissione dell'atomo. E mi è, così, ho visto domenica scorsa un bel editoriale che magnificava la potenza di fuoco del governo Renzi nella crescita, dicendo praticamente che i consumi delle famiglie italiane sono 4 trimestri consecutivi che salgono, cioè da luglio 2014. Allora, siccome io su queste cose sono abbastanza tignoso, perché diciamo... Specifichiamo su queste cose. Su queste cose, no? Ci sono altre su cui lascio correre ampiamente, diciamo, assolutamente. E quindi sono andato a verificare. E in realtà ho scoperto che i 4 trimestri consecutivi di crescita della spesa delle famiglie residenti esistono. Sono partiti dal secondo trimestre 2014... +0,5, +0,5, +0,5, +0,3, però non sono trimestre su trimestre, ma sono trimestre sullo stesso periodo dell'anno precedente. Questo cosa vuol dire? Che poiché abbiamo iniziato a crescere nel secondo trimestre 2014, quindi da aprile, maggio, giugno, sullo stesso periodo del 2013, vedo piuttosto difficile che questa cosa possa essere imputata al governo Renzi, quanto non piuttosto eventualmente al governo Letta. Al governo Letta. Che è quello che, virgolette, poverino, virgola, non è capace, chiuse le virgolette. Nell'intercettazione generale di notti, che però sono fantasy, a differenza di quelle di Crocetta, per cui il PD chiede che... Sì, ma è fantasy anche quello che ha scritto l'editorialista dell'Unità, no? Perché poi chiude il pezzo dicendo: riassunto, le famiglie consumano di più, e a giudicare le vendite al dettaglio non si direbbe ancora. Non si direbbe ancora. Le fabbriche producono di più. Può darsi, non so, cioè, e i posti di lavoro aumentano. Questo, diciamo, considerando i dati di occupazione, non è esattamente così. Però è bellissima questa cosa quando non si conosce la differenza tra tendenziale e congiunturale e si riesce a fare della propaganda dozzinale che fa pure rima. Non è che mi abbia fatto incazzare, perché oramai ho smesso di incazzarmi, perché proprio sono completamente desolato e sono molto triste per lo stato miserrimo dell'informazione italiana. Che poi una testata così gloriosa e così ricca di sussidi dei contribuenti, diciamo, oltre che di storia, torni per scrivere minchiate del genere, è ancora più desolante. Però, diciamo, il genere fantasy va molto di moda in questo paese. Che dici, Carlo Alberto? Ma siccome lui ha parlato dell'Unità, voglio parlare del Mattinale, perché l'uscita su questa neonata Casa della Speranza è bellissima, ve la devo leggere. Il Mattinale, no? È, perché per chi non, sì, lo sapesse, la nota che viene redatta all'ordine di Renato Brunetta da parte dei Forze Italiane. Testuali parole: nasce la Casa della Speranza dai larghissimi perimetri maggioritari, inclusivi, senza gelosia di gonfaloni, ma tutta tesa alla prosperità del popolo. Le idee le abbiamo, il carisma del leader è fresco e intatto. Io non lo so, ma il tono di sta roba qua non mi sembra vagamente anni 30? No, a me sembra di qualcuno che ha il compito di scriverla, capisce perfettamente che è una sceneggiata e ci mette un eccesso di tono perché tutti capiscono che è quasi autoironico. No, ma dopo aver sniffato Trielina ma avevi sbagliato, perché è una nuova offerta politica, il quid in più, il delta, continuo a leggere, signori. Comunque il centrodestra è totalmente assente da qualsiasi tema di dibattito. Come sull'Europa sarebbe? Sulla Grecia, cioè, signori, non pervenuti. Io sono disperato, no, però, non perché voti per loro, sia chiaro, semplicemente perché senza un minimo di dibattito in questo paese, cioè ci dividiamo fra i renzisti tiepidi, perché di caldi non ce n'è più, caldo, per carità, esatto, e di diaspora completa. Che è sfuggita la fondamentale notizia sui giornali di oggi: c'è un colossale sviluppo in atto invece intorno a Berlusconi, perché alla festa della Pasquale non è stata invitata Maria Rossi, la tesoriera Maria Rosaria Rossi. Maria Rosaria Rossi. E ci sono pezzi politici, colonne intere che esaminano questo è il pane dei retroscenisti, che esaminano le conseguenze politiche future di questa scelta fondamentale. Però il dominus del Mattinale, L'onorevole professor Renato Brunetta non è vero che, cioè, ha questa imponente elaborazione intellettuale, ma fa anche altro, perché per esempio mi ha bloccato su Twitter. Professor Brunetta, la prego, non faccia così. Io capisco che non sono alla sua altezza intellettualmente, accademicamente. Non parlare però, di altezza, ma, con Brunetta, scusate, per favore. Però, cioè, non faccia così. Si apra al confronto, sia buono. Perché tanto poi io di lei scrivo lo stesso, per cui non è che... E io il suo tweet lo posso comunque vedere. Faccia il bravo, su. Va bene, ci sentiamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta ai compari dei conti della Belva, Oscar, Carlo Alberto e Mario. E partiamo con la nostra consueta prima rubrica: a che punto è la crisi? Sto vivendo una crisi, è una crisi, c'è sempre ogni volta che qualcosa non va. Eccoci qua, la crisi, naturalmente, naturalmente. Io direi di iniziare a fare quattro chiacchiere sull'esito, almeno fino a oggi, della vicenda greca. Che dici, Mario? Ma io ho un grande desiderio, quello di mettere le mani e gli occhi sul famoso paper di Schäuble che prevede la Grexit a tempo di 5 anni, perché io voglio capire, mi dicono che è una sola pagina, per cui non so se quanto è ricco, non l'ho ancora visto, e operativamente cosa pensa di fare con questa uscita a termine. Poi mi pare di dover dire questo, io personalmente sono abbastanza d'accordo con Schäuble, nel senso che qui stiamo cercando veramente di rianimare un morto. Voi siete morti. Sono stati fatti degli errori responsabili. No, ma sono stati fatti degli errori drammatici. Però la cosa più inquietante del pensiero di Schäuble è che lui fa solo trasparire. Allora, i tedeschi sappiamo che sono contrari a tagliare il debito della Grecia, no? Il valore facciale del debito della Grecia. Perché sarebbe una violazione dell'articolo 125 del Trattato di Lisbona, no? Che è l'intervento diretto di paesi terzi a finanziare il deficit. E però sono possibilisti e aperturisti sulla possibilità di allungare le scadenze, no? Di altri 30 anni. Abbassare... Il famoso reprofiling. Esatto, reprofiling. Quindi di abbattere il valore attuale netto del debito. Ora, io dico... Capisci? Voi capite che è se noi stiamo parlando... Lana caprina. Esatto, di non avere nessun problema di forma all'abbattimento del valore attuale netto di un debito, e invece di essere qui ad impiccarci perché oddio non si può tagliare il valore facciale del debito, cioè questa Unione Europea è spacciata, ma soprattutto sono nominalismi, ma Schäuble aveva detto: se la Grecia uscisse dall'euro, sia pure pro tempore, potrebbe avvenire il taglio del debito, perché non sarebbe più sottoposta al Trattato di Lisbona. Ora voi rendetevi conto a che punto siamo arrivati. Cioè, una persona che nella vita dovrebbe essere giurista, comunque avvocato, quello che è, e che quindi oltretutto è pure tedesco, quindi la lettera della norma si impicca, no? A differenza di noi italiani, per i quali la lettera della norma serve solo a fregare i nemici e ad aiutare gli amici, per cui siamo veramente male assortiti. Però questo è veramente drammatico. Poi, per quanto riguarda le misure, io sinceramente credo che finirà male, perché poi ci sono queste clausole di salvaguardia con tagli automatici della spesa pubblica, cioè non si andrà da nessuna parte. Io pure sono molto scettico sul merito, credo che sia solo una tappa del percorso a tappe, che non so che esito avrà, cioè nel senso che quando tu dici, Schäuble, tocchi il punto, cioè una unione monetaria che non capisce che le crisi fiscali avvengono, che le crisi monetarie avvengono, che a quel punto o si hanno un set di regole per affrontarle, invece che per esorcizzare dicendo no, nella storia non avvengono più, sono venute per secoli, adesso arriviamo noi e non si tocca più. Se non si tocca a questo punto delle regole, è un percorso a tappe di progressivo rottura del muso contro il muro. Vabbè, poi però, in tutto questo, Tsipras, rendiamo atto al nostro filo Tsipras, della compagnia, cioè Carlo Alberto vedeva un pizzico di lontano quando ci ha detto guardate che Tsipras gestirà bene alla fine, perché la la gestione dell'ultima settimana di Tsipras ha lasciato molti sorpresi, nel senso che ha detto: sentite, quando siamo andati lì noi non eravamo in grado di uscire dall'euro, lezione per i no euro, se minacciate di uscire dall'euro dovete essere tecnicamente in grado coi controcoglioni di farlo, perché altrimenti... No, ma controcoglioni dovete... però ne hanno tanti, eh. Ma io l'ho detto apposta per lanciarti la battuta. Vuoi provare se ero sveglio, diciamo. Allora, perché altrimenti, come evidente, bisogna accettare invece la cosa opposta. E però Tsipras l'ha gestita molto bene, devo dire, la cosa opposta fino a questo secondo momento. Me l'ha gestito bene l'Europa. Io l'Europa sono, l'ha gestito sono bene. Molto cinico a dire che abbiamo introdotto di fatto un'unione dei trasferimenti per via monetaria, cioè lato stato patrimoniale invece che lato conto economico, è surrettizia. Stiamo riformando de facto i trattati dell'Unione Europea. A quello punto la legge non potrà che seguire. Deformando o riformando? Riformando, ah, de riformando. Facto. Sì, sì, sì. È interessante, effetti, la riforma. Sì, sì, è una riforma, riforma pragmatica, ovviamente che non ha tempo per mettere mano ai testi dei trattati, ma prende atto che quella è la strada migliore. E siccome invece questo è importante, che fonderà pragmaticamente le basi per i nuovi trattati. Ci vogliono una decina d'anni, abbiate però, pazienza. Però scusate, ma dai, io che sento Hollande che dice ci vuole più integrazione. No, quando sono i francesi stessi che rifiutano categoricamente di cedere sovranità ad ogni angolo di strada. Carlo Alberto, ma il paradosso dei giornali italiani in cui tutti quelli che fanno a gara come te a essere europeisti titolavano appena è uscito il testo dell'intesa sul protettorato tedesco e difendevano la sovranità nazionale. Qui gli europeisti difendono la sovranità nazionale. Ma è un contraddizione a dietro. Non guardare me, ovviamente. No, io non sono europeista, sto dicendo che lo forza dell'Europa di trovare una soluzione pragmatica, non ideologica, che poi ha dato luogo invece a queste, zuffe ideologiche imbarazzanti, sì. Quando invece l'Europa ha trovato un accordo l'unico possibile, serio, non lasciamo i greci, non li lasciamo, è un segnale importantissimo di commitment, e questi 80 miliardi sono ben spesi invece, e capirete che la Grecia avrà 10 anni davanti durissimi, però era vero comunque, quindi scusate, dal mio punto di vista completamente indifferente, perché non mi tirate in ballo l'argomentazione del la Grecia pagherà caro, ha pagato caro. No, io ti tiro in ballo l'argomento della settimana scorsa e poi mi fermo qua, per cui a settembre quando qua torneranno a riprepensionare la gente in deficit, perché è evidente, noi avremo un argomento in meno per dire che è meglio non farlo, perché ci diranno chi se ne frega, perché come vedete ai greci per l'ennesima volta abbiamo consentito, non c'è come avete visto nei provvedimenti del governo l'accelerazione dell'attuazione della riforma previdenziale, anche se c'era nel testo, però Tsipras ha concordato con i tedeschi de facto dicendo vabbè tanto faccio questo ma non lo faccio. Esatto, si chiama unione dei trasferimenti con altri mezzi, te l'ho detto, stiamo usando metodologie non scritte per intervenire, de facto stiamo riformando l'Unione Europea, quello che non vi rendete conto che sta già succedendo, l'unione fiscale. Semplicemente usiamo, come dire, elementi dei trattati che ce lo consentono. Mario Draghi sta facendo di fatto il ministro delle finanze dell'Unione Europea senza essere stato nominato tale, ma la sua decisione di allargare l'ELA, di comunque di sostenere le banche greche è una decisione assolutamente razionale da questo punto di vista. Dobbiamo staccare, questo sì, banche da stati. Quando avremo fatto quello, a questo punto gli interventi rigorosi sarà possibile, quindi per me l'unione bancaria è veramente strumento importantissimo per fare questo fondamento. Va bene, può essere che questa tua tesi funzionale per cui oramai cambiamo i trattati senza scrivere i cambiamenti sia l'autostrada della politica, per me è la garanzia di un caos, non so come dirti, e non credo che alla fine i tedeschi, quando se ne renderanno conto davvero, ci staranno. Dopodiché, detto tutto questo, la mia preoccupazione riguarda l'Italia, che ha dei fondamentali deboli e che secondo me rischia da questa vicenda greca, da una parte molti si devono interrogare perché parlare di uscita dall'euro grandissima lezione invece, scusami, da una parte sì, dall'altra sulla questione dell'equilibrio di bilancio, cioè sul fatto che si cresce con riforme per più produttività, perché una moneta unica o fai riforme di produttività oppure non ti resta che la deflazione interna dei salari, fatti o tagliando i salari, ma qui non si può fare, quindi si fa solo attraverso più disoccupazione, purtroppo questa è la Grecia che esporta. Esatto, però per quello che riguarda l'Italia io mi preoccupo che il mix italiano sia ulteriormente indebolito sotto questo profilo. Ma chiusa questa parentesi greca, chiusa che, questa che, parentesi io trovo, greca. Che io trovo comunque una settimana di passione, ma di grande apprendimento. Di grande apprendimento. Perché questo almeno la gente capisce con le sberle, se non le capisce con le buone. Sì. Allora, arriviamo a questo bel scambietto di cui due cose di cui Genova Italiana non si sono occupati. Primo, la nuova CDP del premier Matteo Renzi. Che cosa fa questa nuova CDP? Quatta, cambia lo statuto in un modo che quando viene eletto, e i giornali italiani chissà dove erano, però perché non se ne sono occupati, evidentemente non disturbiamo il manovratore, si scopre una cosa clamorosa. Mario. Sì, si scopre che praticamente la destinazione dell'utile di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dovrà avvenire a dividendi per almeno il 60%, e sarà possibile derogare solo in caso di comprovate esigenze di rafforzamento patrimoniale. Il voto dei rappresentanti in CDA delle fondazioni bancarie è determinante a questa finalità. Cosa vuol dire questo? Negli ultimi due anni, solo per guardare gli esempi a noi più vicini nel tempo, la Cassa Depositi e Prestiti ha destinato a dividendi circa il 35% del proprio utile, un terzo. Adesso per statuto dovrà destinare il 60%. Si raddoppia. Esatto, di fatto è un raddoppio, con il potere di veto su eventuali deroghe affidato alle fondazioni. Avete capito? Il signor Presidente del Consiglio raddoppia per statuto i dividendi alle fondazioni. E anche al Tesoro, a dirla e tutta. Anche al Tesoro, però in primis sono le fondazioni. Esatto. Che erano state iperbastonate dal governo, esatto, dal punto di vista della tassazione della legge, certo, di stabilità. Mo' si ripigliano, ovviamente, perché per statuto hanno il potere di veto, quindi non si può scendere sotto il 60%, e in cambio quindi di questa bella garanzia, di questo bel regalone, dopo una bastonata molto discutibile, però di questo bel regalone il Presidente del Consiglio li rassicura e quindi io ti do l'ok per entrare poi nelle aziende private con la roccia. State facendo un processo di intenzioni. Ma come? Ma no, per favore, gli utili della Cassa Depositi e Prestiti, così come siamo messi, non ci saranno mai più. Sì, però la cosa è veramente inquietante. Dai. Perché intanto l'articolo 3 dello statuto non è cambiato, per cui la Cassa Depositi e Prestiti continua ad oggi a fare quello che faceva nella gestione Bassanini-Gorno-Tempini, quindi non sarà l'IRI, non potrà assumere partecipazioni in aziende che non siano in equilibrio patrimoniale, finanziario, reddituale. Ma se dovesse cambiare qualcosa e la CDP, Mario, comincia a indebitarsi... Vediamo, perché noi e altri colleghi abbiamo in mano il testo di un decreto col quale si modifica la legge. È necessaria una modifica di legge per arrivare alla modifica dello statuto, per arrivare alla modifica per la quale le famose società in stabilità, per esempio, siccome Telecom Italia nel bilancio degli ultimi due anni non rientra nel criterio attuale dello statuto, noi abbiamo in mano una bozza di decreto esattamente per farlo. Ad azienda? Ecco. Allora, vediamo se non lo faranno, perché io nel vedere questa regalia oscena, capite cari ascoltatori, oscena, che nessun giornale italiano abbia spiegato che questo è stato il nocciolo dell'accordo tra Fondazione Bancaria e Renzi, il raddoppio per statuto dei soldi alle fondazioni bancarie, la dice lunga su quella è l'atmosfera perché prima gliela aveva italiana. Dimezzati con la legge di stabilità, no? Togliendo la quota di esenzione dai dividendi, alzandola al 77% d'altra parte stabilità. I soldi per ricapitalizzare le banche italiane da qualche parte devono saltare fuori, Oscar. Io dico semplicemente che mi vergogno a nome dell'informazione italiana. Sì, questo sicuramente. Cioè, io di questo sto parlando, poi la politica decida quello che vuole, però lo devono dire e i giornali lo devono raccontare. Comunque neanche le locuste degli hedge funds peggiori hanno il 60% di dividend ratio. Per statuto. Da predatori dell'arca perduta, capisci? Se tu investi così pesantemente e ti leghi le mani una distribuzione di utili al 60% tramite dividendi, tu andrai fatalmente ad aumentare il tuo indebitamento per pagare dividendi. Sicuramente, ti stai stringendo il collo. E tutto questo per tornare al punto di partenza, no? Perché le fondazioni erano state tassate di più sui dividendi e peraltro retroattivamente in legge di stabilità. Infatti hanno ottenuto la restituzione, quella era un'oscenità per certi aspetti e adesso è un'oscenità per altri aspetti questa. Ripristinato lo status quo ante, ricorda la storia della riforma del regime dei minimi. Sì. Prima hanno fatto un casino d'inferno e poi a metà gennaio sono tornati allo status quo ante. Esatto. Ma se dobbiamo fare un passo avanti e un indietro, non converrebbe stare fermi? Oltretutto fa caldo e la lucidità si perde? No, ma poi si devasta ogni credibilità in questo modo. Posso dire un'altra cosa? Se vogliamo fare la CDP un fondo sovrano con i capitali pazienti, la distribuzione dei dividendi è l'esatto contrario, ma di quello, certo, che devi fare, massimo, cioè, esatto, dire attento. Comunque, fai, cari, esatto, ascoltatori, fai il paio il silenzio dei media con il silenzio assordante dei media su questa norma fiscale con la quale si vuole introdurre la sanzionabilità dal 10 al 50% dei prelievi sui conti bancari dei lavoratori autonomi. Se quel prelievo non vede, in caso di accertamento fiscale di agentrata, giustificato l'eventuale beneficiario o che voi abbiate gli scontrini, cari lavoratori autonomi, autonomi, di che cosa avete fatto anni fa di quel prelievo, perché altrimenti lo Stato dice che il vostro prelievo è equiparato a un ricavo in nero non contabilizzato. Questa norma, che dovrebbe far saltare sulla sedia grandi direttori, grandi giornali, è lì, nessuno ne parla, viene considerata l'ennesimo sviluppo della strategia anti-evasione fiscale, invece è una follia. La Corte Costituzionale se n'è già occupata l'anno scorso, i giornali dovevano spiegare che uno Stato che presume che i prelievi siano contabilità in nero è uno Stato impazzito, che sta violando la Costituzione. Eppure anche in questo caso i grandi grande testata di informazione, zitti e pippa. A me sembrano pessimi segni di come in questo paese l'informazione non adempie più alla sua missione fondamentale. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 10:37 primi, 17 secondi, questo sabato 18 di luglio, San Federico, i compari dei Conti della Belva, Carlo Alberto, Mario e Oscar, in questa bellissima Italia dove apprendiamo che fino al 97% possono esserci nei comuni gare senza appalti, fino al 97%, ma la media comunque è superiore all'80%, questo è il rapporto dell'autorità anticorruzione sui dati sui comuni italiani. Aosta, guardate che Aosta, altro che sud schifoso, nord virtuoso, Aosta quasi il 90%, Aosta, cricche che si dividono tutto, quindi procedure senza gare, questi sono i comuni italiani. Viviamo in un paese in cui i magistrati adesso indagano anche gli operai dell'ILVA, denunciati perché lavorano, perché non si attengono al fatto che i magistrati continuano a sequestrare gli altiforni, quell'impresa va chiusa, come ovvio, e quindi i lavoratori, capite, adesso vengono indagati perché lavorano. Altri magistrati del resto intercettano ai ministeri i ministri perché se vogliono elaborare testi che limitino gli effetti dei sequestri delle aree di Fincantieri o di questa o quella centrale, il ministro viene intercettato immediatamente e presentato sui giornali come un corrotto che incontra i mafiosi. La politica non può neanche valutare quindi la possibilità di eventuali provvedimenti. In questa Italia qua, cioè un'Italia un po', diciamo, indecorosamente non in ordine su come affronta le sue emergenze, un punto di fondo riguarda gli squilibri della nostra piramide dei redditi, anzi la clessidra dei redditi italiani. Che cosa avviene questa settimana? Che l'Istat ricalcola, per così dire, i poveri. Cosa vuol dire ricalcola i poveri? Senza entrare in particolari troppo tecnici, l'Istat questa settimana annuncia di aver rivisto gli indicatori statistici con i quali elabora il calcolo di quanti siano in Italia coloro che ricadono la definizione di povertà assoluta e di povertà relativa. La povertà relativa è fatta avendo come criterio una composizione familiare rispetto al reddito medio e ISEE, la povertà assoluta è quella invece che indica la difficoltà rispetto a un paniere di beni. La sintesi di tutto questo è che grazie a questo ricalcolo succede che i poveri relativi 2013 sono 7,8 milioni, prima erano 10 milioni, i poveri assoluti 4,4 milioni invece di 6. Ecco, quindi insomma 1,6 milioni, 1,7 milioni spariscono con i nuovi criteri, e soprattutto non c'è più un aggravamento, sia pure con le cifre riviste al ribasso, con questi indicatori, del fenomeno della povertà. Allora, qualunque cosa voi pensiate di questi nuovi indicatori, la questione è complessa. Il Corriere della Sera ha, secondo me, ragione a far rilevare che Istat, Ministero del Lavoro, eccetera, continuano comunque a elaborare i dati su basi non convergenti. Ieri c'è stato uno scambio di opinioni sul Corriere della Sera con l'Istat da una parte, Stefano Boeri, e anche il giornalista del Corriere della Sera, Enrico Marri, che continuava a dire: io non discuto i vostri criteri statistici, ma abbiate la cortesia di darci indicazioni convergenti. Detto questo, il welfare italiano continua a non essere fatto a misura di chi ha meno. E la questione è, senza pensare di avere chissà quali risorse pubbliche e scassare il bilancio, visto che molti anzi pensano a ulteriormente mettere mano ai prepensionamenti, nel 2013 103 miliardi sono andati dalla fiscalità generale all'INPS tra assistenze e previdenti, 103 miliardi, e noi vogliamo prepensionare in deficit. In tutto questo, come si fa a immaginare una linea di welfare che però dia una risposta non come è avvenuto con gli 80 euro a chi ha già, sia pur meno, ma a chi ha meno e menissimo, per così dire? Ecco, per parlare di questo abbiamo due ospiti con noi e cominciamo con il presidente nazionale delle ACLI, l'Associazione Cristiani Lavoratori Italiani, Gianni Bottalico. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Allora, voi avete avuto anche un incontro con il governo Poletti per capire in legge di stabilità che cosa può avvenire da questo punto di vista, perché nella maggioranza, esponenti del governo, lo stesso Stefano Boeri, molte sono le idee, ma alla fine che cosa avete capito che è in arrivo, forse? Noi abbiamo capito dall'incontro di ieri, innanzitutto, c'è almeno l'intenzione e la volontà di affrontare il tema della povertà, in questo in particolar modo la povertà assoluta, e ha fatto bene lei a richiamare la differenza tra le due situazioni, perché c'è una grande confusione nella politica a mettere insieme. Quindi prima di tutto questa volontà, il problema è che in questo momento, al di là della volontà, occorrono e le risorse da mettere in campo nella prossima legge di stabilità, ma soprattutto avere anche un concetto di superamento della sperimentazione, perché in questi anni non dimentichiamoci che il problema della povertà è stato affrontato, ma con una serie di sperimentazioni i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. La povertà è aumentata negli anni, raddoppiata dal 2007 al 2014, e i risultati sono stati negativi, col rischio poi di un giudizio che è evidente di sperpero di risorse pubbliche, alla fine, se non si raggiunge l'obiettivo, se non c'è un beneficio. Quando parliamo di sperimentazione, ricordiamo per esempio che ministro Giovannini, Enrico Giovannini, nel 2013 si provò con il SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, che era una forma di reddito di cittadinanza per chi non raggiunge la soglia minima di povertà, la cui sperimentazione poi però non è stata confermata da Poletti, è così? E così fu l'inizio, non era proprio un reddito di cittadinanza, si diceva più un reddito di inclusione, per sincerità, perché non colpiva, non dava, come dire, a pioggia su tutti, ma voleva affrontare il tema della povertà assoluta. Ma poi non se ne fece niente perché non c'erano le risorse economiche in quel momento, e siamo rimasti fermi ancora a quella situazione, cioè nulla di fatto. Nulla di fatto, né vi è stata fatta una quantificazione, sia pure approssimativa, di quello che è in arrivo con la legge di stabilità, corretto? No, la quantificazione c'è stata fatta, nel senso che nel piano di ieri che ci è stato illustrato, a grandi linee, non si è entrati nel dettaglio, il piano non parla di dettaglio, ma si prevede eventualmente come obiettivo un miliardo e mezzo nel triennio, quando noi nel reddito di inclusione avevamo già previsto, ce ne volevano almeno 1,8 all'inizio e 7 miliardi a regime. Quindi mi pare che siamo un po' lontani dall'affrontare con determinazione il tema della povertà assoluta. Allora, secondo ospite con cui insieme al presidente Bottalico tentare di capire che cosa si può fare da questo punto di vista, invece con il secondo ospite da un punto di vista un pochino più liberale, cioè avendo in mente da una parte gli equilibri di bilancio, dall'altra la stima delle risorse disponibili se non si vuole scassare tutto troppo e se non si pensa che la vicenda greca sia l'inizio di una nuova storia, come invece ci dice Carlo Alberto, però può essere pure, vedremo, per i conti italiani mi pare difficile, ma invece con un'attenzione sia a misure che possano davvero essere non una dispersione di risorse a pioggia, e sia dall'altra parte coerenti con un welfare di cui vedere il costo totale rispetto alle nostre risorse pubbliche. Quindi abbiamo con noi per parlare da questo punto di vista Nicola Rossi, economista, ex parlamentare, che io ringrazio di essere con noi. Buongiorno Nicola. Buongiorno, buongiorno. Allora, quando senti queste cifre, questi indicatori dell'Istat, gli incontri con il governo, eccetera, eccetera, e tutti gli strumenti di cui si parla, il reddito, si fa una grande confusione tra i redditi vari che vengono proposti dalle forze politiche, oramai 5 Stelle e così via, cosa pensi in realtà che sia possibile davvero? Beh, innanzitutto penso che dovremmo capire di che stiamo parlando. Allora, la povertà relativa è una misura di disuguaglianza. E con i fenomeni di disagio di alcune fasce sociali c'entra poco e niente. Aggiungo che i numeri sulla povertà relativa segnalano che la povertà relativa di questi ultimi 2-3 anni, diciamo 2012, 2013, 2014, è inferiore a quella di 20 anni fa. Quindi tutti coloro i quali, diciamo, ogni sera praticamente in televisione ci dicono che in questi ultimi anni è accaduto dal punto di vista della disuguaglianza un disastro inenarrabile, forse dovrebbero quantomeno leggere i numeri, diciamo, prima di parlare in questo senso. È evidente che questa è una misura sui redditi e non sulla ricchezza. Se andessimo a guardare la ricchezza probabilmente qualche cosa di diverso troveremmo, ma diciamo il primo dato importante è che sotto il profilo della disuguaglianza le cose non sono cambiate in maniera così radicale rispetto a come erano, per esempio, 20 anni fa, prima della crisi e così via. E prima dell'euro, per inciso. Il secondo punto è che invece... Ti ringrazio per questo inciso, perché ci sono economisti italiani per i quali ormai, anche se piove o c'è il sole, la colpa è dell'euro, quindi grazie per farlo. Dunque, per quanto riguarda invece la povertà assoluta, allora lì anche qui una premessa necessaria, diciamo. Il fenomeno rilevante è un fenomeno che, questo sì, è cresciuto negli ultimi 10 anni, che si sembra essersi attenuato nel 2014 e fermato rispetto agli anni precedenti. È un fenomeno la cui portata è macroscopica nel Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Mezzogiorno, ed è un fenomeno che, a mio modo di vedere, si combatte in primo luogo con una cosa: lavorando. Qualunque lavoro è meglio di nessun lavoro, non so come altro dirlo, diciamo, sì. Per venire fuori dalla povertà. Dopodiché io per primo, diciamo, so benissimo che venire fuori dalla povertà a volte è molto difficile, che una volta che ci si cade è facile dire lavorate, non è semplice, perché si perde capitale umano e si perde anche la capacità di stare sul mercato del lavoro, e quindi misure che si associano, per così dire, ad un mercato del lavoro fluido spesso e volentieri sono necessarie. Sono misure che costano, e di che tipo di misure stiamo parlando? Allora, sul fatto che costino io vorrei, come dire, un attimo essere preciso. Noi abbiamo ancora un discreto numero di trattamenti assistenziali a livello nazionale e a livello locale. Molti di questi sono totalmente inefficaci, come i numeri ci chiariscono in maniera, diciamo, inequivoca. Quindi la prima cosa che bisognerebbe fare è quella di sostituire l'attuale sistema di trattamenti assistenziali con un trattamento assistenziale, diciamo, con altre modalità, con altre caratteristiche, con altra condizionalità e così via. Va in questo senso, diciamo, vanno in questo senso le proposte di reddito di cittadinanza o cose di questo genere? Sì e no, perché, diciamo, non sempre sono molto spesso mi sembra che vengano formulate come misure in realtà più per tenere conto di situazioni fra un lavoro e l'altro, che non come misure vere e proprie di contrasto alla povertà. Quindi la maniera con cui vengono disegnate, al di là del nome, è molto rilevante, e non sempre abbiamo tutti i dettagli per capirlo. La mia sensazione però, diciamo, è che effettivamente si possa seriamente pensare di mettere in campo una misura di contrasto alla povertà, ripeto, che fermo restando però che la prima misura è lavorare. Io francamente resto fedele alla mia vecchia idea, quella un po' di Milton Friedman, per così dire, cioè siccome qui la questione riguarda gli incapienti, quelli che sono sotto la soglia, non tax free area, insomma, per capirci, allora lì si tratta di integrare per arrivare a quello, concetto molto semplice, farlo in maniera graduale, farlo con una chiarissima indicazione delle risorse rispetto ai programmi assistenziali che non funzionano. funzionano. Certo, una cosa è dirlo, altro è farlo, però io sono per questa misura secca, che naturalmente all'essere evocato nome Milton Friedman farà imbizzarrire molti, ma questa è anche la prova del fatto che poi i liberali, virgola, quelli veri, se ne occupano e come dei poveri. Non è affatto vero che credano in un modello di cui ci siano solo i ricchi e le imprese. Torniamo tra un minuto. Della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 10.51, siamo i compari dei conti della Belva e abbiamo con noi due ospiti, il presidente nazionale delle ACLI, Gianni Bottalico, e Nicola Rossi, economista. Tra di noi nella pausa si parlava proprio del fatto che in realtà la modifica del criterio, degli indicatori statistici con cui determinare povertà assoluta, povertà relativa, apparentemente è una questione tecnica, ma bisogna guardare i redditi o bisogna guardare le spese e i consumi? Nella realtà è il nocciolo dell'approccio politico alla questione, perché quando io dico, che la mia modestissima opinione di fesso è quella di una integrazione a chi sta sotto la soglia degli incapienti fiscali, io in quel caso sto assumendo un criterio di reddito, come è evidente, non di capacità di spesa. Quando Nicola Rossi ci faceva osservare, attenzione, se passiamo alla capacità di spesa, al reddito e patrimonio avremo dei dati diversi. La modalità con cui tecnicamente si definiscono queste cose, in realtà, Carlo Alberto, è il nocciolo della politica per affrontarla la questione. La politica deve decidere se i parametri sono da reddito, quindi sostanzialmente nominali, o se sono sostanziali, che tengono conto del potere d'acquisto, della parola consumo va interpretata ampiamente, quindi del lato domanda del problema. Sì, certo. Questa è una visione politica, però ecco, se non ci mettiamo d'accordo sulla legittima proposta tecnica e la necessaria consapevolezza politica di questo paese sul tema della povertà, di come dobbiamo definirla responsabilmente come welfare state moderno, e non andiamo molto lontano, cioè finiscono questi litigi, azzuffamenti. Ma c'è, si aggiunge la confusione tecnica, lo dico col pieno rispetto per l'Istat, però nella pluralità di criteri seguiti dalle fonti pubbliche, da una parte, e dall'altra la politica che si limita a dire, sentite, vediamo un po' chi è che fa la proposta, mi avanza qualcosa, facciamone una sperimentale e dopo due anni torniamo indietro. Fare carità pelosa, se posso dire. Allora, dai, sentiamo il presidente nazionale delle ACLI intanto che cosa pensa di questo criterio. Bisogna utilizzare i redditi, la capacità di spesa, è possibile cambiare idea tecnicamente ogni X anni e avere l'interlocutore politico che a quel punto a propria volta lancia delle navicelle senza risorse e senza fare una scelta precisa, mettendo tutti insieme, e però quella scelta la si fa come una scelta radicale di sistema? Che pensa, Presidente? Guardi, io le dico con sincerità, sono d'accordo in generale sulla discussione, però in questo momento il rischio che corriamo è quello di rincorrere intorno a questo dato di vista e dimenticarci che comunque c'è un dato incontrovertibile, che il dato della povertà è un dato ormai strutturale. Non è più un dato che possiamo cambiare, quindi questo, a questo dobbiamo partire. E mi consente anche di dire per precisione... Però cosa vuol dire e non è un dato che possiamo cambiare? Vogliamo cambiare? Nel senso, guardi che far sparire 1,5 milioni di poveri da un anno all'altro diventa una cosa molto strana. Sì. Qualcuno potrebbe anche pensare che i poveri siano rientrati nei nuclei originali e quindi facendo cumulo di reddito non ci sono più, non rientrano più nella classe della povertà quando erano soli, separati, divorziati, capisce? Ci sono tutta una serie di questioni, per l'amor di Dio. Quindi io sono d'accordo che si vada a definire con chiarezza su quali dati noi vista oggi ragioniamo. Il rischio però, e lo abbiamo anche concordato insieme un po' tutti quanti, anche col governo, di non fermarci a questo dato, di andare oltre. Andare oltre vuol dire oggi prendere atto che il dato sulla povertà, comunque anche sui 4 milioni, è un dato ormai strutturale. Sì. Per questo è necessario. Però lei la vede una scelta di fondo. Nicola Rossi ci dice: primo, lavorare, perché questa è la questione. Ecco, io voglio dire anche su questo: sì, attenzione, non è soltanto questo. Noi stiamo parlando di grandi fasce, anche disagiate, dove il tema non è soltanto il lavoro. Ecco perché noi nel reddito di inclusione mettiamo e proponiamo anche tutta una serie di reti di servizio col modello di welfare di comunità, che è welfare quello che si avvicina alla gente, risponde ai bisogni della gente, dove non ci sono, come dire, le cosiddette furbate, mi consento un termine, ma tanto per capirci, Noi intendiamo questo perché purtroppo, ahimè, sarebbe molto facile soltanto col lavoro per pensare di combattere la povertà. No, non ha detto così. Soltanto, ha detto innanzitutto. Innanzitutto sì. Però ma lei è d'accordo sul fatto che una, per esempio, ricognizione generale delle risorse utilizzate attualmente a livello centrale e locale a fini di assistenza potrebbe reperire una buona parte delle risorse che altrimenti il governo vi dice guardate noi più di un miliardo... È la filosofia della nostra proposta, è la filosofia esatto. della nostra legge di inclusione. Noi siamo convinti che oggi bisogna razionalizzare le spese che noi mettiamo, ce ne sono tante, guardi che ci sono un sacco di fondazioni. Lo so bene. Altro che... ci sono soldi nostri delle nostre organizzazioni, delle nostre associazioni, i nostri 5 per 1000 che noi... Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta dopo essere stati energicamente richiamati dalla regia rispetto ai tempi, quindi comunque adesso me ne assumo la responsabilità e saluto, finito il blocco relativo alla povertà e agli strumenti per vedere come se il governo troverà cosa fare per affrontare la povertà nella legge di stabilità. E comunque grazie ancora e perdonate se non abbiamo salutato il presidente Reacli Bottarico e Nicola Rossi. Un po' di telefonate adesso da parte vostra sui diversi temi che abbiamo toccato nelle prime ore. Cominciamo con Costantino da Lecco. Costantino, prego. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei dire una cosa che non dite mai. Lo strapotere del pubblico impiego. Ah. Strapagati, perché non è giusto che un operaio specializzato prenda 1.800 euro lordi, deve pagare tasse dirette e indirette. E loro si prendono quello che vogliono. Una cosa per il signor Rosa. Il signor Rossi che è abbastanza anziano, la vera crisi è iniziata negli anni Ottanta, quando l'operaio prendeva in busta un milione al mese, più milioni di contributi e varie cose, 2 milioni, le ditte hanno cominciato a chiudere. Il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, quegli anni li prendeva 20 milioni all'anno. Questi qua in 35 anni, che cosa si sono fatti? Si sono mangiati il paese, lei dice. Allora, quanto agli andamenti delle retribuzioni pubbliche rispetto a quelle private, io devo confermare quello che dice Costantino. Malgrado il blocco di questi 5 anni dei contratti pubblici, a cui si è sommato il blocco del turnover, che ha diminuito in termini reali sia il numero di dipendenti pubblici per il blocco del turnover e ha stabilizzato, quindi significa diminuito in termini reali rispetto al resto della spesa corrente che saliva, detto tutto questo, ciò malgrado l'andamento dei redditi pubblici rispetto a quelli privati è superiore all'unità, cioè continua a essere superiore alle retribuzioni private. E poi dovremmo parlare di produttività, che è il metro corretto, perché non si può parlare esatto. di stipendi nominali se non si parla di produttività, e lì purtroppo le note sono ancora peggiori, caro Oscar. Allora, ma naturalmente non sarà questo, immagino, il tema al centro della ripresa del confronto, visto che il governo deve trovare i soldi con la prossima legge di stabilità, perché deve rifare i contratti dopo la riforma, dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Vedremo quanta produttività c'è. Ma è vero che gira questa notizia da alcuni giorni che Renzi vuole togliere la tassazione della prima casa? Sì, te lo confermo. Ma è reale questa cosa o sì. è il ritorno di Renzi Usconi? No, perché... Anche Berlusconi l'ha appena rimessa al centro. Mi siete persi un elemento, che la revisione del valore catastale che porterà l'IMU sulle seconde e terze case addirittura al triplo, al quadruplo, compenserà tutto questo. Quindi secondo me è un'operazione intelligente per ridistribuire la tassa sulla casa. Sentite, ma io vi dico solo che l'ANCI con la local tax che deve essere messa nella legge di stabilità 2016, l'ANCI vuole 32 miliardi. Come questo sia compatibile con la diminuzione, con l'abbattimento addirittura della tassa sulla prima casa, vedere per credere. Basta aumentare quelle sulle seconde case, il quadruplo, mi sembra evidente. Matematica creativa. Secondo me lui lo vuole fare in deficit, eliminare la tassa. Questo sarebbe sbagliato, però dai conti che ho visto io invece questa cosa invece questa è secondo me la cosa che so anch'io. Questo è l'eterno ritorno, no? Chiederà all'Europa un po' di flessibilità. Il resto uno che ha detto io adesso vado e mi incazzo. Nel frattempo noi abbiamo praticamente non preso più decisione sulla finanza pubblica dall'inizio dell'anno, non capisco, continuo a non capire perché, visto il deterioramento delle cose internazionali, le sentenze della Corte, le reverse charge e così via. In legge di stabilità credo che avremo una raffica di sorprese, perché ovviamente il PD, che sta sotto, come evidente, deve aprire un nuovo ciclo elettorale, quindi ci vuole il bis degli 80 euro. Questo è il punto di fondo, ma ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi. Stefano da Brescia, invece, su cosa vuole intervenire? Stefano. Pronto, buongiorno. Buongiorno. A tutti, io vado subito al dunque. Ho sentito nominare dei debiti del giornale dell'Unità e va a finire che dobbiamo pagarli tutti questi debiti. Io sarei curioso di sapere chi li ha creati questi debiti, chi ha preso questi soldi. Ma Stefano, questa è l'unità del debito, capisci? No, non fare battute. Carlo Alberto tende a difendere una testata con cui collabora. Quindi no, scusatemi, cioè. E da questo punto, allora, chi ha preso tutti questi soldi che sono stati creati col debito? E da quando in qua, quando uno riapre un giornale, non paga i debiti precedenti? Io se faccio un debito devo pagarlo prima di aprire un'altra attività. Non va bene, non va bene, sento le pubblicità su tutte le radio, di nuovo saranno soldi che paghiamo tutti, non va bene. Non va bene. Stefano, naturalmente è possibile avere procedure di discontinuità rispetto alle procedure concorsuali delle gestioni precedenti, questo è possibile rilevando la testata, com'è? Questo è possibile. Detto tutto questo, punto interrogativo sulla sostenibilità dell'Unità, io lo condivido, però vedremo. Quello che è evidente è che chi si aspettava una Unità a fianco dell'ala sinistra di opposizione del PD ha sbagliato sui conti, perché la direzione di Erasmo De Angelis, l'ex capo dell'Unità speciale per infrastrutture a Palazzo Chigi, non è esattamente molto critica nei confronti di Palazzo Chigi, ma questo rientra nella piena legittimità della conduzione di quel giornale. Manuel da Trieste. Manuel. Buongiorno Oscar, io sono un imprenditore che ha passato anche lui i suoi momenti brutti, questa crisi che è stato colpito, che ne sto venendo fuori, e quindi mi sento molto vicino allo Stato italiano, però bisogna prendere delle decisioni un poco radicali. Adesso, alla luce anche di quello che è successo in Grecia, sentire che ci vogliono soldi per la crescita, ma un paese che è la seconda potenza produttiva della dell'Europa, sì. Manufatturiera, quinta, sesta mondiale, che si voglia mettere a pietire dei soldi, cosa vorrebbero avere? Qualcosa che gli lascia che l'Europa ci lascia spendere, che spendere vuol dire avere ancora più debiti, che qualcuno li pagherà. Ma quando abbiamo 17 miliardi che vengono date alle imprese a pioggia senza creare un tubo, perché sono proprio soldi sprecati, che parlo da imprenditore attraverso le camere di commercio, quando abbiamo 1 milione di pubblica amministrazione, di dipendenti a pubblica amministrazione che andrebbero licenziati immediatamente e li spiego per non fare una rivoluzione, e gli do lo stipendio finché vanno in pensione, gli do lo stipendio, ma da imprenditore so che quando gli do un posto di lavoro a uno mi costano altrettanto per telefono, aria condizionata, computer, eccetera. Li lascio a casa e li pago lo stesso. Con quei soldi che risparmio faccio tutta la crescita, do un reddito e cittadinanza a chi voglio. Manuel, dei progetti rivoluzionari, lo sai che naturalmente non vedrai mai niente di tutto questo in anni, mai niente, però ogni tanto uno si sfoga e lo dice, per così dire. Non credo che i sindacati sarebbero molto d'accordo con te, però vedremo. E intanto grazie. Mario da Roma. Buongiorno, senta, il problema è proprio quello a cui accennava l'imprenditore, cioè i buoni imprenditori, quelli che pagano le tasse, poi sono danneggiati in un mercato inquinato dai cattivi imprenditori che evadono in tutti i sensi. Sì, che evadono, che colludono con i sindaci che all'89% affidano gare, affidano lavori, servizi e appalti senza procedure di gara di evidenza pubblica. Questo fa parte della corruzione. Sono d'accordo. Ieri abbiamo dedicato un'altra puntata, l'ennesima, la versione di Oscar, ai furbi privati che con le finte procedure concorsuali introdotte in ordinamento a fini di crisi, ma in realtà che consentono ampi margini ai furbi, distruggono coloro che altri privati che non pagano grazie al concordato in continuità. E oimè, il problema dell'Italia non è solo un punto di bassa efficienza e alta corruzione pubblica, è un problema anche di diffusa attitudine ad avere atteggiamenti non cooperativi nella trasparenza, ma che sono invece elusivi e distruttivi nella opacità. È un problema nazionale questo qui, perché ha a che vedere con il nostro carattere nazionale. A me non piacciono le categorie antropologiche, però talvolta è proprio vero che questi problemi ci sono nel nostro paese, sono un pezzo della storia italiana, per così dire. Vedremo anche su questo, per esempio, la riforma del concordato in continuità promessa da mesi ma continua a non arrivare, e su questo noi abbiamo l'evidenza di decine di migliaia di piccole imprenditori, di piccolissime imprese, di artigiani che a quel punto vedono crediti liquidati, si vedono arrivare proposte di liquidazione dei propri crediti all'1%, il che significa follia, come evidente. Bisogna almeno introdurre una soglia minima, almeno il 20-25%, altrimenti si è lavorato, felici di aver lavorato, per non vedersi arrivare una lira, perché c'è qualcuno, un euro, perché c'è qualcuno che fa il furbo e la legge sta dalla sua a quel punto. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati con i compari Carlo Alberto, Mario e Oscar. Sentiamo ancora una telefonata. Giorgio da Padova. Giorgio. Sì, eccomi qua. Io non ho ascoltato tutta la trasmissione, ho sentito l'inizio. Ci mancherebbe. Mi riferivo alla a quella parte che riguarda l'utilizzo del contante da parte delle partite IVA. Sì. Ecco, il prelievo equiparato a un ricavo in nero non contabilizzato. Esattamente. Allora, io l'unico commento che faccio è questo: se questo trattamento è riservato solo alle partite IVA, mi pare una discriminazione, e credo che qualcuno dovrebbe spiegare perché. Se è allargato a tutti, mi può andare anche, non ne capisco la ratio. Non so quale sia la vostra opinione, però mi pare che creativi. Non può essere allargato a tutti, per il semplice fatto che la presunzione dell'equiparazione di un prelievo di contante a ricavo non contabilizzato può avvenire solo per chi personalmente ha incardinato su di sé un'impresa in contabilità semplificata, una semplice partita IVA, un professionista, ma comunque un lavoratore autonomo, perché come ovvio per il dipendente questa presunzione non puoi farla. Quindi è proprio fatta così, concepita per questo. Ripeto, c'è già stata una sentenza della Corte su questo l'anno scorso e loro la aggirano, perché a quel punto passano dal fatto che non diventa un elemento presuntivo nell'accertamento tributario, ma diventa direttamente sanzionabile dal 10 al 50%. La maggior parte dei giornali italiani dice: ma no, ma non urlate, ma non protestate, poi alla fine vedrete che l'Agenzia delle Entrate la utilizzerà nella maniera più saggia. Sì. Ecco, allora, io dell'Agenzia delle Entrate, la cui direttrice sta continuando a fare campagna per la sanatoria agli 800 dirigenti legittimi dell'Agenzia delle Entrate, e anche in questo caso con gran parte dell'informazione italiana ai suoi piedi, io francamente della sua saggezza ed equilibrio sarei portato non a diffidare pregiudizialmente, perché non è giusto, ma comunque a dire che è meglio non avere nelle norme queste follie. Ripeto, la presunzione dell'equiparazione di un prelievo di contante a un ricavo non contabilizzato è una roba da procedura dell'Inquisizione spagnola. Ma poi se ci sono tutte queste leggendarie banche dati incrociate di cui parla il Presidente del Consiglio, il controllo si fa per quella via, in caso, certo, in non, caso è si fa, ante, non è che si fa da un'altra parte a carico degli interessati, esatto. No, mettendo su di loro l'onere della prova, ma se io prelevo, no, per andare dallo spacciatore all'angolo della strada o per andare dalla prostituta all'angolo della strada, ovviamente questo non è un caso personale, sto facendo una cosa astratta. Si chiamano exempla ficta. Esatto, ma se questi qui vanno a depositare o i soldi transitano altrove, controllate i loro rapporti bancari. Lo so, però. Cioè, perché dovete rompere l'anima a me? Cosa volete? Lo scontrino parlante dello spacciatore, esatto, della prostituta? Fatto, cioè, voi, cioè, tutto capite, con capite i video, esatto, telefonini. Esatto, ma cioè, capite la demenzialità di questo provvedimento? E poi, scusa, Oscar, una cosa rapida. Ribadiamolo per l'ennesima volta, ad nauseam. Il problema in questo paese è diciamo, l'Agenzia delle Entrate che scrive misure che poi finiscono direttamente nella legislazione. Esatto, che lei... sia per competenza tecnica superiore rispetto a parlamentari che mediamente non ci arrivano, o per qualsivoglia altro motivo, questo è un problema democratico oggettivo. Anche perché lei scrive, quindi è lei la titolare del procedimento di creazione normativa ed è lei la titolare del diritto esclusivo dell'interpretazione della norma. E al contempo noi abbiamo i babbei che continuano a strepitare contro Equitalia, che non c'entra nulla, perché Equitalia opera a valle in fase di riscossione. La norma fiscale nasce a monte, nasce altrove, le vessazioni nascono lì. Per cui è inutile rompere l'anima tutte le volte con Equitalia quando i problemi stanno altrove. È così. E inciso, la famosa voluntary disclosure da cui l'Italia si aspettava e questo governo si aspettava una massiccia emersione di imponibile, quindi strutturalmente acquisito poi nel gettito per gli anni a venire, cosa positiva. In realtà è frenata perché la norma, appunto, interpretativa su evitare il più possibile il raddoppio dei termini di accertamento per gli anni pregressi alla voluntary, guarda caso manca. Sapete perché manca? Perché questo è uno delle armi di ricatto che l'agenzia sta utilizzando col governo per avere la sanatoria dei suoi dirigenti. Siccome chi segue dal punto di vista tecnico l'informazione tributaria questa cosa la sa, però a dirla è una cosa sgradevole perché ci si espone nei confronti dell'agenzia e del suo attuale direttore, non la dicono praticamente, e così voi non lo sapete. Allora sappiate che lo scontro tra governo e apparato tributario è uno scontro all'arma bianca su questa faccenda dei dirigenti, da confermare o da nominare solo per concorso. Di mezzo ci sono anche le norme senza delle quali adesso arriveremo inevitabilmente, lo vedrete, alla proroga dei termini per la voluntary disclosure che scadevano a settembre. Peccato che nel frattempo i capitali, visto che le banche svizzere vogliono la full compliance immediata, la gente che non ha fatto domanda fino adesso, i soldi li avrà spostati a Macao o a Hong Kong, ma di questo all'agenzia fotte un cavolo di niente, perché il problema è avere la conferma dei loro dirigenti illegittimi. Mi prendo la responsabilità, se volete querelatemi e portatemi di fronte a un giudice, cari amici dell'agenzia delle entrate. Chiusa questa cosa che a me purtroppo mi fa scaldare un po' troppo, per ma così davvero, dire. Ma davvero? Ma, no, ma dai, ma che paese è? Un paese in cui bisogna aspettare che siano i funzionari e i dirigenti a scrivere le norme tributarie? Ma ha perfettamente ragione Mario, è una questione di democrazia fondamentale questa del procedimento normativo tributario delegato a dei signori che non ne rispondono politicamente, però siccome la politica lo consente, che volete che vi dica? Allora andiamo a un altro punto fondamentale dell'Italia che non funziona. Che cosa avviene nel nostro paese che, malgrado i 3,5 milioni di disoccupati e il recupero della disoccupazione, lo avrete visto, insomma, durerà anni perché noi torniamo al pre-crisi con questo lento ritmo della ripresa italiana, ciò malgrado le imprese italiane hanno migliaia e migliaia di posti che non coprono, Abitualmente è il l'osservatorio rapporto Excelsior, quello con cui si fa la verifica nel nostro paese tramite camere di commercio dei posti che le imprese offrono e che non vengono coperti, di cui hanno bisogno che non vengono coperti perché manca la professionalità sul mercato del lavoro dei giovani o comunque dei disoccupati per coprire queste richieste delle imprese. Adesso invece prendiamo spunto da un altro strumento che però arriva a queste stesse conclusioni, perché Manpower Group, quindi stiamo parlando di una grande impresa che è multinazionale, che si occupa esattamente e professionalmente di intermediare domanda e offerta di lavoro, quindi professionalmente studia esattamente i profili, le skills necessarie, compie un report annuale del nostro paese come molti altri paesi esattamente su questo punto, ed è molto interessante vedere che questo problema è confermato, e noi ci poniamo la domanda con una certa chiarezza se la riforma della scuola nel frattempo è stata approvata, dà una risposta ai problemi che si evidenziano in questo report del Manpower Group. Allora, per parlarne abbiamo con noi Stefano Scabbio. Buongiorno. Buongiorno Oscar, buongiorno Carlo Alberto. Che è l'amministratore delegato appunto di Manpower Group. No, figuriamoci, grazie a voi per darci questi strumenti. E poi per Adapt, Emanuele Massagli. Buongiorno Emanuele. Buongiorno. Ecco, a cui poi poniamo la domanda invece su riforma della scuola, apprendistato e così via. Ma cominciamo con i numeri del rapporto di Manpower Group. Allora, Scabbio, che cosa si evidenzia nell'Italia rispetto agli altri oltre 40 paesi che sono investigati in questo rapporto? Ma come dicevi tu prima, si evidenzia chiaramente una percentuale ancora elevata, pari al 28%, delle aziende che riscontra difficoltà nel ricercare lavoratori con le giuste competenze, con i giusti skills, no? E questa classifica che è stata stilata vede quest'anno al primo posto una figura che fa riflettere, che è quella dei macchinisti, cioè di coloro che coordinano e regolano i processi produttivi, perché essendo un paese a vocazione manifatturiera abbiamo un problema oggi di ricambio generazionale, proprio come effetto dei primi baby boomers, su questa figura di coloro che gestiscono oggi con tecnologia nuova, digitale, processi produttivi, e questa è una figura che scarseggia. È al primo posto della classifica. Poi abbiamo segretari assistenti, tecnici specializzati, comunque tutto quello che riguarda i periti elettronici, soprattutto i periti meccanici altrettanto, quindi figure con competenza tecnica, con vocazione a competenza tecnica. Poi arrivano gli addetti alle vendite, poi arrivano i professionisti comunque dell'information technology, quindi tutte figure che, se vediamo tendenzialmente, a parte i venditori, che comunque anche i venditori sono connotati da una competenza tecnica, il denominatore comune è che noi siamo un paese che fatica a sviluppare persone con competenze tecniche, quindi il legame con l'education, soprattutto su materie scientifiche, matematiche, fisiche, è secondo me una correlazione importante sulla quale come paese dovremmo riflettere. Questa analisi ci dice anche nel dettaglio che sostanzialmente quali sono le cause, no? le prime ragioni di questa difficoltà a trovare questi profili. In dettaglio abbiamo circa oltre il 40% che è identificato come mancanza di competenza tecnica, come vi dicevo ora. Poi abbiamo anche una buona percentuale che si aggira intorno al 17% che prevede una mancanza di quelle che vengono definite le metacompetenze, cioè le competenze della vita, come le chiama l'OCSE, o in inglese le soft skills, cioè il problem solving, la capacità di comunicazione, la capacità di lavorare in gruppo, tutte queste competenze più soft, che oggi sono molto importanti nel mercato del lavoro. Allora, poi... un momento solo, perché anche qui c'è, mi interrompo solo per dare questo elemento a chi ci ascolta. Naturalmente, da una parte ci sono le skills che hanno a che vedere con i profili professionali che non vengono offerti dalla nostra istruzione pubblica. Quando si tratta invece delle soft skills, cioè queste metacompetenze, anch'esse identificano un problema tipico della lacuna dell'offerta formativa pubblica, perché sono quelle che si riscontrano per esempio nelle graduatorie, nel ranking PISA, quindi quando si arretrava, non parliamo dell'istruzione terziaria, a quel punto universitaria, ma della media e media superiore come cicli di istruzione, e si evidenziano nel caso italiano problemi elementari di comprensione dei testi, problemi elementari di competenza aritmetica, problemi elementari di soluzione di problemi in cui ci sia una qualunque operazione di interesse composto. Ecco, anche le metacompetenze vengono da lacune dell'offerta formativa pubblica. Chiuso l'inciso, per così dire. Assolutamente corretta la precisione. Aggiungo una cosa che secondo me è importante. Dal punto di vista della nostra didattica del sistema educativo, abbiamo esempi importanti nei paesi europei, senza allargarci allo sguardo sul mondo, ma il Belgio, la Germania, la stessa Spagna prevedono nel percorso didattico materie come l'economia, come l'imprenditorialità, che sono materie trasversali che aiutano moltissimo già a scuola secondaria a sviluppare questo tipo di metacompetenze. E da noi queste materie, soprattutto l'imprenditorialità, nonostante siamo un paese a vocazione imprenditoriale, non esiste oggi. Forse proprio per quello, siccome abbiamo una alta vocazione imprenditoriale, non c'era bisogno di insegnarla. Però Stefano, una cosa che volevo chiedere a Stefano, però le imprese non è che cercano la conoscenza certificata dal diploma, alle imprese bastano le competenze de facto, cioè quelle apprese. Certo. Per cui dobbiamo veramente gravare sulla scuola pubblica o servirebbero invece funzioni intermedie anche post scolastiche che migliorino queste competenze sul campo? Ma io credo che servano tutti in questo momento, quindi voglio dire, anche qui i principi di sussidiarietà, no? Tra privato, pubblico o organizzazioni di diverso tipo, e ne abbiamo diverse in Italia, importantissime, possono contribuire a sviluppare questo tipo di competenze. Quindi c'è bisogno però di un coordinamento e di una focalizzazione su questo tipo di obiettivo. Un altro punto importante, anche le imprese però, perché stavamo parlando adesso di pubblico, sostanzialmente anche le imprese formano poco. È vero che usciamo da una crisi. È quello che volevo farti dire, cioè non voglio mettere sulle spalle dello Stato tutte le responsabilità. La verità è che si deve continuare a studiare anche dopo aver smesso di studiare e mai smettere. E le imprese hanno la responsabilità di spendere molto di più e in maniera molto più coordinata nella formazione di queste competenze sul campo. Allora, qua ci fermiamo perché torniamo tra un minuto. Mi chiedo se il segnale pubblico, lo so che Carlo Alberto ormai da che è diventato Filo Tsipras, Fiorio Renzi, lo è sempre stato, però qui adesso lo Stato non è il grande problema, però cioè, per esempio se uno vede l'apprendistato e come lo abbiamo preso a calci, facciamo la riforma della scuola e facciamo una riflessione sul sistema professionale duale tedesco, neanche per idea, e i segnali che arrivano alle imprese restano di questo tipo qua, cioè noi l'apprendistato gli abbiamo fatto la guerra per anni considerandolo da parte sindacale e da parte della sinistra uno strumento attraverso cui le imprese abbattivano i contributi, ne hanno svuotato ulteriormente ogni volta il contributo formativo perché eludeva i contratti, questa è l'amara verità che abbiamo nella cultura pubblica del nostro paese, e infatti adesso stiamo riuscendo con lo Jobs Act a ucciderlo definitivamente l'apprendistato, perché i numeri dicono questo. Torniamo tra un minuto, lo so, ma lo faccio per contrarre la parte filopubblica di Carlo Alberto, è diventato filostatalista. Mario, dammi una mano, ti prego, torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le resta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati in diretta agli allegri, si fa per dire, compare dei conti della Belva. Mario, io sono allegro però, eh. Anch'io, lo so, moderatamente allegro, no, io e senza bere peraltro. Immoderatamente non troppo allegro, ma comunque questa è il mio mood, questo qui. Allora, siamo partiti da questo report di Manpower su quanto rimaniamo corti di profili formati che servano alle imprese, malgrado la disoccupazione, non solo nei profili formati ma anche nelle meta abilità, per così dire, cioè nelle caratteristiche di fondo che consentano di essere versatili, ecco, nel saper lavorare in un team, nel saper affrontare dei problemi di fare delle relazioni. Noi restiamo un paese che ha problemi formativi di questo tipo, dice giustamente sia Scabio di Manpower che Carlo Alberto Canale Monfè, e naturalmente la colpa non è solo dello Stato, sono anche le imprese che devono formare di più. Però torniamo sulla faccenda, visto che la riforma della scuola in questo paese la si fa una volta ogni X ed è appena approvata una nuova riforma della scuola, con Emanuele Massagli, presidente di ADAPT, il centro studi sul lavoro, il diritto del lavoro, eccetera eccetera, a mio giudizio che batte qualunque altro italiano per capacità di unire intanto formazione di giovani da portare fino al dottorato, secondo quantità e qualità di dati a noi che ce ne occupiamo, terzo una attività quotidiana di convegni in tutta Italia, quindi insomma voglio dire stiamo parlando di una roba che a me piace molto, lo dichiaro ogni volta e li ringrazio per quello che fanno. Emanuele Massagli, questa riforma, la buona scuola e i dati che vediamo di applicazione del Jobs Act, cioè morte dell'apprendistato come era prima, che già non mi piaceva, cosa ci dicono rispetto ai problemi del talent shortage che sono resi evidenti dal rapporto Manpower? Ma la buona scuola ha l'intento positivo di provare a immettere più lavoro nei corsi scolastici. Per ora è questo l'obiettivo, non c'è ancora l'obiettivo di formare le competenze richieste al mercato del lavoro. Mi spiego, nella buona scuola sono previste 400 ore obbligatorie di alternanza negli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei, parliamo delle classi superiori, e questo vuol dire che le scuole dovranno per forza di cose incominciare a portare i ragazzi nelle aziende e nelle imprese. Si parte da una situazione in cui solo il 10% dei ragazzi fa una qualche esperienza di alternanza nel nostro paese, di colpo il sistema scolastico si troverà a dover trovare aziende disponibili ad ospitare un numero ingentissimo di ragazzi. Credo che quantomeno nel breve periodo si prenderà tutto il possibile, per cui anche pubbliche amministrazioni, stage fuori dagli orari scolastici, chiunque abbia una disponibilità. Questo è già qualcosa. Però posso fare un'obiezione? Sì. Rispetto a alla scelta di fondo del sistema duale professionale tedesco, che va dal ciclo delle scuole medie fino al post terziario, col risultato che oltre il 40%, per esempio, il totale degli iscritti alle università in Germania frequenta università professionalizzanti, da noi lo 0,3%. Ecco, quella è una scelta che io capisco. Questa storia di passare da 200 a 400 ore senza sapere che farsene, io ho il dubbio che non lo sia, o no? È un'altra cosa. Il governo ha richiamato più volte il sistema duale dicendo che vuole andare in quella direzione. C'è una differenza sostanziale nel sistema duale, che per semplificare nel periodo scolastico fa sì che un ragazzo sia 3 giorni a scuola e 2 in impresa nella settimana standard. Nel sistema duale l'esperienza in impresa è estremamente connessa con l'esperienza a scuola, esatto, e viceversa, cioè, e quindi si formano le competenze nella coscienza che le competenze non si formano né solo in teoria né solo pratica, per cui non c'è pratica senza teoria e non c'è teoria senza pratica. Chiaro che fare alternanza, fare uno stage, per quanto per fortuna più lungo della settimana, che è quello che succede adesso in Italia, in un contesto che non c'entra nulla con quello che studi, è utile per un primo contatto col mondo del lavoro, ma non è utile per formare quelle competenze richieste dal mercato del lavoro di cui si parlava prima, perché c'è è un'alternanza, nel senso è una sconnessione tra l'attività formativa scolastica e l'attività, tra virgolette, lavorativa. Lo so, il problema è che però siccome il sindacato e la sinistra hanno sempre visto l'alternanza vera, l'alternanza significa appunto 3 giorni qua e 3 giorni là, piena compenetrazione in come si elaborano i programmi, il che significa che la scuola riconosce alle imprese la facoltà e il titolo pieno di identificare insieme queste competenze. Questa roba viene vista però in Italia come la bandiera bianca dell'aziendalizzazione, il mercato che mette gli artigli, uccide l'eguaglianza, eccetera, eccetera. Ecco, però posso chiedere a Stefano se le imprese sono preparate ad affrontare tutto questo percorso duale? Secondo me no, ecco, lo dico da certamente non da nemico delle imprese. Stefano, sei ancora in linea? Qui no, il ragionamento è assolutamente corretto. Dovremmo andare nella direzione del modello duale tedesco per dare continuità a un percorso e sviluppo delle competenze distintive dei ragazzi, ma allo stesso tempo le imprese oggi non sono preparate. Abbiamo bisogno di un percorso educativo anche sul lato imprenditoriale per sviluppare, voglio dire, le risorse in maniera adeguata. E questo è un po' connotato con la nostra microimpresa che ci caratterizza. Il tessuto imprenditoriale italiano, come sapete, è fatto dal 95% da imprese micro. Non c'è dubbio, però Scambio, io le do questa mia esperienza in Asso Lombarda. Se anche io vedo le grandi in Asso Lombarda, non ho dubbio. Per esempio Bosch è una cosa che porta l'esperienza tedesca. Bosch è una delle multinazionali presenti in Italia che da questo punto di vista ha programmi di formazione e di presenza nelle scuole spettacolari, avercene veramente a dozzine. Altri, anche grandi gruppi italiani, insomma ha migrato la testa. Certo, c'è il problema dimensionale che sta dicendo Stefano Scabbio, è ovvio, ma anche nelle grandi, insomma, quelle italiane sono un po' indietro. Sì, Sì, però se vediamo la dimensione importante, sì, in termini certo, anche di competenze manageriali, che poi ricade, no, su tutto, certo, su tutta la diciamo così. Il, però devo segnalare una cosa nel vostro report che riguarda le startup che fanno richiesta di programmatori, ragazzi nel settore informatico, e devo dire che invece nell'ingresso nelle startup un pochino più di apertura rispetto all'alternanza scuola-lavoro lo abbiamo trovato. Avete segnali anche voi in questa direzione? Assolutamente sì, credo che sia un filone che sta crescendo molto, che rispecchia questa capacità oltretutto di creare, nonostante le difficoltà di finanziamento e di risorse che nel nostro paese sappiamo esistono per questo tipo di imprese, ma io vedo anche molti imprenditori, molte imprese contemporanee che hanno la visione di investire in queste startup. Noi lo stiamo facendo e stiamo seguendo dei ragazzi e delle startup per aiutarli proprio in questa direzione a sviluppare quelle competenze, no? E quell'organizzazione aziendale, quella cultura che può poi servirle per avere successo in quello che stanno facendo. Quindi credo che sia un percorso che dobbiamo incentivare molto di più, e se ci fosse anche un'incentivazione, voglio dire, di tipo fiscale, sarebbe qualcosa di estremamente importante in questo momento. Magari, una ripresa che si profila essere sostanziosa, più sostanziosa mese dopo mese, a parte il discorso adesso di effetto Grecia. No, ma speriamo e vedremo, perché per tutto ciò che riguarda la parte dell'incentivo fiscale, fino a che non arriviamo all'ultimo giorno di legge di stabilità, il governo ha deciso quest'anno che non andava rafforzata l'avvio della ripresa italiana. Io ero di opinione diversa fin da febbraio-marzo. Grazie a Stefano Scabio, presidente di Arda Mediterranea di Manpower Group, e grazie a Emanuele Massagli, presidente di ABLAP. Noi ci risentiamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui, tornati in diretta per questo ultimo, per questo sabato, poi ci sono ancora altri sabati e torneremo a settembre, non vi lasceremo mai soli. Non vi libererete mai di voi, di noi. No, di voi. Il morso della belva è saldamente ancorato ai vostri glutei, questo è il fatto. Oddio santo, il caldo inizia a fare effetto, e anche tra i compagni dei conti della belva, ed è con noi in questa parte finale anche, talvolta in studio, al prossimo anno verrà più spesso in studio Renato Cifarelli. Come stai Renato? Grazie. Buongiorno belve, allora come state? Noi siamo per così dire un po' preoccupati, perché abbiamo capito che i nostri temi non ci sono sui giornali, quindi siamo sempre più minoritari. Dai. Ma è bello essere minoranza ogni tanto, dai. Lo diceva lo so, anche Nanni Moretti in Caro Diario. Perdere sempre però. Allora, prima che Renato Cifarelli ci dica il che non si può fare, sentiamo Silvio dalla provincia di Cuneo. Silvio. Bene, buongiorno a tutti. Io sono un imprenditore artigiano, sono stato presidente di contrattazione di secondo livello con le organizzazioni sindacali, sì, e mi sono battuto, mi sono messo di traverso un po' con tutti, perché sostenevo che l'apprendistato è un'opera straordinaria, sì, uno strumento fantastico per far sì che i ragazzi possono imparare quelle cose che si chiamano lavorare con cuore e col cervello. E ha vinto o ha perso? No, ho perso, sono accettato, quindi è ovvio questo. Però voglio dirvi una cosa. Voglio dirvi una cosa. Io sono un artigiano, ho due lauree, quindi non è che sono proprio un cretino, e ho sempre lavorato applicando il concetto di intelligenza sulla formazione dei ragazzi. Io in questo momento ho 7 ragazzi che lavorano con me, hanno fatto gli stage formativi e sono diventati tutti i miei operai. Io vorrei dare un consiglio a questo governo, se ne ha bisogno, è che la riforma della scuola, soprattutto delle scuole professionali, non deve portare ad avere solo dei grandi ingegneri, ma servirebbe una connessione tra le scuole statali, professionali, e il mondo del lavoro. Esatto. Perché le scuole, le alberghiere non hanno i soldi per far fare nulla a questi ragazzi. Esatto. Invece noi, che avremmo le cose, non abbiamo la possibilità e gli strumenti per poter coinvolgere, ma non con 23-44 ore di stage, ma veramente con un progetto integrato scuola e laboratorio di produzione. Io faccio il cioccolato. Silvio pone la questione che andava messa come una degli assi su cui fare la riforma della scuola, secondo me. e chiunque abbia esperienza del tessuto di piccola impresa, di artigianato, di questo che caratterizza dimensionalmente e strutturalmente il tessuto di impresa italiana, sa che questo è il punto. Però tutte le volte che c'è una riforma della scuola si parla dei precari da assumere, io li rispetto, si parla dei presi di sceriffo, mi cadono le braccia a quel punto, ecco. Comunque, Renato, che cosa questa settimana ti ha particolarmente colpito nella graduatoria del non si può fare ma si continua a fare in questo paese? No, allora, prima una chicca per Carlo Alberto, sai che lui parliamo sempre di informatica e queste cose. No, parlate anche di moto, parlate. Vabbè, a parte quello, dai. Sono in moto e sto parlando con l'auricolare della moto, dai. Comunque, parliamo di fatturazione elettronica. Questa settimana un mio fornitore, ho scoperto cosa intende per fatturazione elettronica. Ha scritto la fattura a mano, poi ha fatto una foto col telefonino e me l'ha mandata. Grandioso! Però. Via mail. Questa una fatturazione raster la definirei a questo punto. Questo è il nuovo concetto di fatturazione elettronica per i miei fornitori. No, invece una cosa che mi colpiva questa settimana è il paese in vacanza. Cioè, questo è un paese che... ci lamentiamo tanto che non facciamo PIL, poi provate a prendere appuntamento con una persona da qui a fine agosto. Poi dopo finito agosto ti dicono che comincia il periodo del budget, quindi sono molto impegnati. Quindi quelli, soprattutto in certe aziende molto grandi, da qui a novembre è quasi impossibile lavorare con la persona. Allora, io su questo ti do ragione, ma mi dicono sempre che sono io che sono troppo stacanovista, eccetera, eccetera. Sì, anch'io evidentemente. Però mi volevo ricollegare a un argomento che io considero fondamentale, perché ai nostri giovani una prospettiva la dobbiamo dare, che è quella di cui parlavamo prima, del lavoro, sai, che è una cosa alla quale io sono molto legato. Una cosa che mi dispiace molto è che a volte la nostra azienda, che non si ferma e va avanti, fa fatica a trovare la gente, perché ti dicono: ah no, io ad agosto devo andare in vacanza. Stiamo parlando di disoccupati, non stiamo parlando di persone che stanno lavorando, tanto per intendere. E voglio spezzare una lancia: guardate, Renato Cifarelli, l'imprenditore che sta parlando e che fa parte della nostra compagnia, non è il Bauscia caricatura pieno di pregiudizi contro i giovani sfaticati che immagino molti di voi o alcuni di voi possano adesso immaginare, perché ha detto che nei colloqui di lavoro gli arrivano disoccupati e gli chiedono ad agosto si va in vacanza oppure no. Non lo è. Questo fatto, continua Renato, però che cosa ci dice? No, ci dice che c'è una cultura molto spesso delle esigenze del lavoro e del lavoro un po' bassa, che è il grosso problema che ha la scuola in questo momento, visto da uno come me che cerca di dare lavoro ai giovani e ogni tanto, per fortuna, visto che l'azienda va bene, ci riesce. Assumiamo ancora. Allora cosa succede? Che tu ti trovi con le soft skills di cui si parlava prima, sì, che sono ormai, tieni conto che noi molto spesso assumiamo persone che vanno in produzione, quindi non è che abbiamo bisogno di grandissime qualità. Quello che noi cerchiamo è che almeno dimostrino di aver voglia di lavorare, che mi sembra la soft skill minima per assumere una persona. Sì. Una cosa che spesso sbagliano i giovani sono i colloqui di lavoro. Un paio di chicche. Allora, uno è venuto da noi, ha fatto il colloquio di lavoro e alla domanda perché si è licenziato dal precedente posto, la risposta è stata: e ma lì c'era da lavorare. Voi capite che, no, allora, da un lato rido, no? Però dall'altro lato è una cosa molto seria, perché vuol dire che la scuola non è in grado di insegnare ai giovani quel minimo di comportamento che è necessario poi per approcciare il mondo del lavoro, perché io ci posso anche ridere sopra, però sì, che uno mi dica mi sono licenziato perché c'era da lavorare, evidentemente pensava che da noi invece... Ma l'hai assunto poi? Non penso. E adesso questa risata non è la risata su quel giovane o se la pensa così. Ohimè, è un paese in cui c'è molto da riflettere e molto, no, da cambiare. Renato, il tempo è scaduto perché siamo a 5 secondi dalla fine, quindi io a nome di tutta la compagnia, però salutate. Ciao a tutti. Ecco, Mario. Renato, non deragliare, vai dritto sulla moto e i nostri ascoltatori sappiano che noi ci siamo anche sabato prossimo. Fratelli d'Italia, l'Italia.